conversazioni intorno all'attualità della vita nei luoghi del festival. Conversazione avvenuta alla sala consiliare di Campomaggiore. È chiaro che oggi accetto la situazione e forse mi piace pure, che a me la città, cioè, come dire, non sono caduto nella lusinga della città grossa, perché avendo fatto pure costruzioni potevo comprare un appartamento, potevo stare fuori, sono stato a Roma, però diciamo sono stato legato al posto. Però oggi mi rendo conto che per i ragazzi tutto è un po' un limite, anche professionale, anche chi ha una passione. Per esempio mio figlio ha 14 anni, 8 di cui 8 suona la batteria. Ma mio figlio, non mio figlio, ma ha veramente la stoffa per fare il batterista. Spendo dei soldi, ho investito tanto, però alla fine qua è limitato. Lui sogna l'Austria, la Germania, l'Inghilterra, l'America, ma io non lo so. Per adesso si accontenta di internet, ma non è solo mio figlio, è la realtà di tante persone, tanti giovani, tante, insomma, anche dal punto di vista artistico, no? Se uno volesse fare un paragone da chi vive qua a chi vive a Roma, le opportunità sono limitate, molto limitate. La qualità di vita sì, è tranquilla, si vive bene, ci sono le amicizie, uno si conosce con tutti, uno esce, un saluto ce l'ha per tutti. Ehi, zia Maria, ehi, Francesco, dove vai? Mo vieni, mo vai, sempre queste domande sono. La mattina quando esci, mo vai? Quando rientri, mo torni? Sì, se sono qua, ho finito di tornare. Ma sono anni che dicevo sempre stia attenzione. Però è bello che hai detto, ricevo queste attenzioni. Sì, è così, è una roba, eh? È una roba perché per chi le percepisce un'attenzione, però può essere pure una rottura, ma no, questo. Però io mi ricordo che da ragazzo, pure uscendo da casa, abitavo da un'altra parte, per arrivare in piazza, zia Ru, zia Marie, zia Gilvestre, zia Rocco, cumba qua, cumba là, tutti salutavano, io salutavo. Oggi, a parte che non ci sono più queste persone, perché le case sono tutte vuote, purtroppo, per l'età sono andati via, però anche i giovani adesso non fanno questo. Ahimè, devo dire che molti giovani passano vicino, non si accorgono dell'altro, non si accorgono dell'anziano, non si accorgono dell'amico, si vede un po', diciamo, una situazione un po' egoistica, egoista e di isolamento, perché il vero problema è questo qua. Mentre prima era diverso, diciamo. Quindi anche una questione di soldi ed attenzione nei confronti di ciò che c'è intorno. Io sì, questo è il fatto. Però diciamo i nostri piccoli centri, come quello che anche l'argomento che trattate voi di questo spopolamento, è chiaro che non lo potremo arrestare né con Matera 2019 né con l'utopia, né, perché alla fine se il giovane o la persona non ha di che vivere qua, ma al di là del divertimento, perché come si dice, un'ora di strada vai nella città. Come io sono un parere che sono pure i giovani che hanno una svolta. Ognuno quanto ci deve mettere del suo, perché noi che mo ci hanno trattato sempre come gli assistiti, mo ha cominciato a cambiare. Chiaro che ognuno deve contribuire a migliorare, perché a trovare i difetti non ci vuole nulla. Io qua troverei 10.000 difetti, ma io dico sempre troviamo un rimedio, però certo. Cioè, questo non va bene, che dobbiamo fare? Che possiamo fare? Eventualità in cui un rimedio non ci fosse. Una domanda, che fare? Questa è una bella domanda. Io perciò ti dico, io personalmente ho accettato questa situazione. Ho lavoro qua, vivo qua, faccio insomma, anche devo dire anche un'altra cosa che forse non è che può interessare a chi, però diciamo questo lockdown mi ha fatto riflettere tanto. Diciamo che fino al 6 marzo ce l'ho scritta la data, perché è cambiata la mia vita, nel senso che tutte le mie abitudini, io prima il paese non lo vivevo proprio, tra lavoro, hobby e altre cose, io qua non vivevo proprio, da anni. Però il lockdown, il virus, diciamo, mi ha costretto, me come tanti altri, a rimanere a casa e a vivere un po' più, diciamo, riservato e tutto, e ho riscoperto quasi il paese. Ti conoscevo per molto il tuo figlio. Infatti, diciamo che ho cominciato poi a avere un po' più di attenzione verso la mia comunità. Questo mi ha dato una spinta per rimanere a te, mi sono candidato pure per l'orazione, sono voluto dare una mano, voglio migliorare con tutte quelle che sono le problematiche della situazione. Però è chiaro che non è facile, non è facile, le soluzioni spesso, non a volte, spesso non ci sono. E non ci sono risposte nemmeno a questo tipo di domande. No, no, infatti io so che è una domanda che probabilmente non ho risposta. Perché di chi io quasi rifiuto la città, rifiuto il caos, rifiuto perché... Allora io quando sto in città mi vengono i nervi, potenze. Se andiamo oltre non ne parliamo. Bari, non ne parliamo proprio, io vado pure a Bari spesso per lavoro, ma non vedo l'ora di tornare a casa, di liberarmi di questa cosa. Ripeto, non ho ceduto alle lusinghe della città, della metropoli, perché ho avuto le possibilità, ho avuto modo di, diciamo, di vedere, però non... Il paese che cos'è? È un piccolo, diciamo, agglomerato di case, che potrebbe essere benissimo un piccolo rione di Roma, un palazzo di Napoli. Cioè, voglio dire, poi piccole realtà che si ingrandiscono in una città come Napoli, Roma, Milano, e alla fine ha una vita proprio di paese, come se fossi... È chiaro che qua manca quasi tutto, ma lui segue la qualità della vita, la tranquillità, la serenità, diciamo, questo è quello che vedo io qui. Però non è che sono stato proprio lusingato dal paese, ripeto, fino a un certo punto no. Però sempre questo legame che ha mantenuto, questo filo si è tenuto sempre, diciamo, teso e non si è mai spezzato. Che poi comunque se vediamo la nostra storia, guarda, i paesi sono andati tantissimi ragazzi, negli ultimi anni sono andati via centinaia di ragazzi. Famiglie intere, purtroppo. Famiglie perché si trasferiscono i ragazzi. Sì, vanno via proprio tutti. Sì, prima va via uno, poi porta via l'altro pezzo di famiglia. Non lo so, questo è. Io dico che ci vuole più coraggio a restare che andarsi. Questo è sicuro. Certo. Io sono della direzione artistica del. Ah, loro sono nella web, eh? Quello che mi diceva, sì, dopo il premio. In breve siamo io e il premio sono loro. Noi siamo nella premio. Giovanni c'è lui Lisa, è proprio dire. Diciamo della, il direttore artistico insieme ad Anna Gesualdi. Okay. Una cosa che vorremmo un po' anche cercare di raccontare, di capire, eccetera, è anche un po' il mondo delle... proprio delle forme artistiche tradizionali, diciamo, dei paesi, delle tradizioni musicali, popolari, vi andrebbe di dirci qualcosa su questo? Campomaggiore, essendo che è un paese che non ha proprio una storia, una tradizione di comunità unica, non, io personalmente vedo che ho visto che non abbiamo proprio delle tradizioni nostre, radicate, che ci portiamo e si tramandano. Perché è una comunità che è nata proprio da quel discorso dell'utopia, che sono venuti da tanti posti, quindi ognuno ha portato qualcosa del suo luogo, a differenza di Cirignano ha una sua storia, che è una comunità che è sempre stata, quindi ha la tradizione del carnevale. Se io dovessi dire qual è la nostra tradizione qua, io ho difficoltà a dire qual è. Qua c'è proprio la tradizione, la devozione... quelle che si fa il 16 luglio, c'è questa tradizionale festa che non so che cosa può essere, diciamo, come però altri tipi di il fuoco che si fa il 17 di gennaio, il fuoco di Sant'Antonio, ma che lo fanno in tanti altri posti. Però c'è una tradizione proprio che uno dice riconosce Campomaggiore con questo tipo di cose, io non ve lo so dire. Ma l'utopia può essere tradizionale? Non lo so. Cioè si può tramandare l'utopia? Ma l'utopia, come diceva il Conte, dice, ma che cos'è l'utopia? A che serve l'utopia? Serve a farti muovere. Cioè, qualcosa che tu non vedi, c'è qualcosa che comunque tu lo stai per raggiungere e non lo afferri mai. Allora un sogno, un progetto, un obiettivo, quello è l'utopia. E poi l'utopia come termine dice qualcosa che non si può realizzare, proprio perché è qualcosa di astratto, che tu cerchi di raggiungerlo ma a volte non ci riesci, però ti fa muovere, ti fa andare avanti, ti fa vivere, ti fa... Quindi diciamo le tradizioni nostre, almeno dico, correggetemi se sbaglio. Ivano, tu che dici? Come tradizione nostra. C'è una forte devozione alla festa della Rodercata. Qua si diceva che ogni persona per la festa della Madonna del Carmine metteva la sua giornata lavorativa come contributo per la festa, e si ferma tutto quando si discute. La Madonna stessa fu protetta dagli abitanti quando ci fu la frana, fu portata a spalla dagli abitanti di Capovangere Vecchio fino al nuovo paese. Fino... E da allora si è rafforzata di più la devozione. È una storia particolare, almeno non mi era mai capitato, diciamo, nella vita di incontrare un paese che in qualche modo ci avesse quasi una data inizio della propria comunità, no? Cioè che non è come appunto Cirilliano eccetera, che è una cosa che si perde nella notte dei tempi, il mondo contadino, gli alberi eccetera, ma è come se da un certo punto fosse iniziata a esistere. Questa è l'impressione che c'è, quindi è molto più moderno come concetto, no? Come concetto di comunità. Poi questo paese qua è stato costruito fino a 800, all'inizio del 900, questo certo. È abbastanza recente, però anche con, come dire, collegato a un'idea molto, molto astratta, cioè no? Molto particolare se vogliamo, però anche comunque anche un ideale di giustizia in qualche modo, no? di una vita migliore in qualche quella modo. Quella che era l'idea del conte quando decise di dare vita a questo borgo era proprio questo, cioè anticipava un po' quello che è il socialismo. Certo. Perché c'era la possibilità per tutti, ma quello l'ha fatto per far sì che uno accettasse di rimanere, di fermarsi in questo luogo e avere la possibilità di avere un lavoro, di vivere. Che prima semmai qualcuno che è venuto dalla Puglia si è impiantato nella città dell'Utopia di Campomaggiore perché aveva da mangiare, aveva una casa, aveva i servizi e tutto quanto. Un pezzo di terra. Era una situazione, una condizione ideale di vita per l'epoca. Quindi diciamo questo che diciamo, esatto, ha proprio un inizio questa comunità. È arrivata ad oggi. Cioè non è che andiamo nel Medioevo, certo. Andiamo nel 1000. Non è chiarissimo. Voi è un po' come se foste per certi aspetti gli Stati Uniti d'America, insomma, cioè a una data di costruito gli Stati Uniti. Che uno se la può ricordare in qualche modo, è a memoria d'uomo, non è nella notte dei tempi. Esatto. Ed è in Italia succede mai praticamente. Assolutamente. Cioè, Pietà Pertosa, per esempio, c'è una storia molto più antica. La araba. Angioini, eccetera, eccetera. Qua non l'hanno visto, può essere che sono passati di qua, però non è che si sono fermati, hanno trovato questa comunità. Insomma, questa è nata dopo. Intervista con il sindaco di Campomaggiore. La scultura in corten, questa, che ha le due date essenziali della vita del borgo, 1741, che è l'anno di fondazione, e poi giù 1885, che è l'anno della frana. In sostanza questo paese ha avuto una vita di 140 anni, con un nucleo iniziale di abitanti di appena 80 abitanti, che poi si è andato via via ripopolando fino ad arrivare a 1525 abitanti. E come è avvenuto tutto questo? È avvenuto che questi nobili signori, questi conti, emanarono, diciamo, una specie di editto per ripopolare appunto il borgo. Chi si fosse trasferito in questo posto avrebbe avuto la concessione gratuita di un pezzo di terra per costruire una casa da trasmettere poi ai propri eredi e successori, la possibilità di coltivare dei terreni di questi proprietari senza nulla dare in cambio, fin quando appunto i terreni non arrivavano a produrre dei frutti, quindi per i primi 6 anni ad esempio chi impiantava vigna non doveva dare nulla. Trascorsi 6 anni, a scelta di questi contadini, veniva dato ai baroni o 5 carlini a tomolo, che era la moneta dell'epoca, o 3 barili di mosto ad ogni settembre. Facevano tagliare dai loro boschi gli alberi per ricavare i tetti delle case per riscaldarsi, con un obbligo ben preciso: piantare per ogni albero che avveniva reciso, o rovere o albero di cerro, dovevano piantare 3 alberi da frutta a scelta del barone. E così, diciamo, inizialmente con queste concessioni di terre in cambio di levissimi censi, il paese iniziò a crescere nell'arco degli anni. Fin quando poi il suo massimo splendore lo raggiunse con uno dei discendenti di questa famiglia, che andò a studiare in Toscana al collegio Tolomei di Siena. All'epoca era uno dei migliori diciamo in Italia, dal punto anche di vista della materia agricola, agraria. E il conte, quando tornò qui, vide che il paese era cresciuto grazie alle cure dei suoi avi, però era molto disordinato dal punto di vista urbanistico. Le case erano aggruppate senza alcun ordine, erano sparse così, senza alcuna caratteristica ben definita, e lui si ricordò di un amico di studi, un architetto tale Patturelli, che si era formato alla scuola di Luigi Vanvitelli, e si incontrarono e gli chiese appunto di disegnare questa pianta urbanistica del paese, e lui lo disegnò con delle strade larghe, dirette, che si tagliano ad angoli retti, e con una vasta piazza nel mezzo, che poi noi andremo a vedere, dove c'è il palazzo baronale e la chiesa. Questo è l'esempio delle strade che per l'epoca erano molto, molto comode, venivano raggiunti da commercianti che li trovavano anche agevoli, perché poi il conte introdusse dal punto di vista agricolo le migliori sementi, i migliori vitigni, e quindi si faceva olio e vino, che era tra i migliori della provincia, nella nostra zona. Qui le case erano fondamentalmente di pietra, anche ora sì. Sono in rovina a seguito della frana del 1741, che poi ha fatto sì che gli abitanti spostassero l'insediamento da un'altra parte, in quello che ora è Campo Maggiore. È Campo Maggiore, no? Sì. Anche i materiali di costruzione sono diversi rispetto a quelli del paese di oggi, che è più mattoni, mi sembra. Qui è pietra. Al paese ci sono anche case di pietra, mm-hmm. perché parte del materiale venne anche poi prelevato dal qui. Poi sono state intonacate così, non hanno la caratteristica, diciamo, che ora hanno questo esempio che noi troviamo, però anche lì, diciamo, erano. Ma ci sono degli esemplari di pietra, c'è anche delle case di pietra a Campo Maggiore. Lei lo sa com'è possibile, diciamo, che il conte fosse arrivato in contatto e avesse aderito in qualche modo a questo ideale di socialismo utopico, che magari in quegli anni immagino non fosse così comune per un aristocratico terriero del sud Italia? No, l'intuizione io credo che sia stata un'intuizione un po' sganciata da quello che poi potrà essere il socialismo utopico, okay. che si è verificato nella seconda metà dell'Ottocento, mm-hmm. perché per tanto tempo si è detto che il conte si fosse ispirato a queste teorie del socialismo utopico, però essendo l'atto di fondazione datato 1741, noi dobbiamo considerare questo come antesignano di quelle teorie, anticipatario di quelle teorie, che se si legge appunto nell'atto notarile del 30 dicembre del 1741 veniva appunto dato a tutti la possibilità di avere una casa di pietra, un campo da lavorare, cioè il pane garantito per tutto l'anno, quindi chi veniva qui era considerato alla pari, aveva la possibilità di auto esprimersi e di dare, naturalmente parliamo di una civiltà contadina, un futuro anche alla propria famiglia, basato su quella che era l'attività dell'epoca. Ma secondo lei, no, le faccio una domanda così, se ha voglia di rifletterci. Noi in questo periodo, con varie persone che incontriamo, persone comuni ma anche autorità, magari altri sindaci così, ci raccontano un po', diciamo, della crisi che le comunità stanno vivendo a causa del problema del progressivo spopolamento, che riguarda soprattutto, magari dicono, i giovani, così, no? Allora voi che siete in questa comunità, eredi in qualche modo, no, di un'idea che è riuscita a attrarre tantissime persone, a far crescere tantissimo una comunità, proprio che in fondo è qui dove siete ancora voi oggi, Lei cosa pensa che potrebbe essere auspicabile, diciamo, per il futuro invece, no? Io credo che le difficoltà ci sono, è inutile negarlo, insomma, si avverte ed è forte il dramma dello spopolamento, però noi ci dobbiamo rivolgere prima a noi stessi che decidiamo, insomma, di rimanere in questi posti, e poi anche agli altri dobbiamo essere di esempio, e soprattutto da questa nostra storia che ha conosciuto, diciamo, più volte situazioni disastrose, però ha saputo rialzarsi. Io credo che dovremmo aggrapparci a quello che di buono noi abbiamo, perché talvolta vorremmo cose che purtroppo forse sono veramente sogni o cose utopistiche, ma noi abbiamo, possiamo lavorare, abbiamo una cultura da poter spendere, abbiamo i nostri posti, dove sulle potenzialità di quello che anche il ritmo lento può essere un valore aggiunto, però bisogna mettersi in moto per questi processi, che non è che possono nascere o essere calati dall'alto, ognuno purtroppo deve essere, deve essere artefice del proprio destino. Allora chi ha deciso di restare e di non andare deve crederci, questo è lo sforzo che dobbiamo fare tutti, e impegnarci affinché il destino, insomma, ci rida un po', venga dalla nostra parte. Perché... Quindi lei dice fondamentalmente la prima responsabilità che abbiamo è nel dovere di... il primo dovere che abbiamo è la responsabilità verso noi stessi, di trovare per noi come comunità un modo di vivere soddisfacente, che poi di conseguenza magari attrarrà anche nuove energie, nuove... Io dico di trovare la forza e chiedersi se ognuno fa fino in fondo quello per cui... e, diciamo, può migliorare, quello che alla base di migliorarsi lo deve trovare dentro di sé. Lo so che è difficile, insomma, perché a volte mancano tante situazioni che aiutano, però un sogno bisogna pure averlo e spingersi fino in fondo per cercare, certo, di realizzarlo. Questa. Qui alla nostra sinistra c'è un edificio più grande invece. Questo era il Palazzo Baronale, proprio come vediamo qui dentro, poi andremo a vedere i luoghi delle autorità. Anche lì avremo due sculture in corten che rappresentano la contessa, che, diciamo, ha redatto l'atto notarile di cui parlavamo prima, del 1741, e poi il conte Teodoro, suo nipote, che ha provveduto allo sviluppo urbanistico del borgo. Più in là, ma poi troviamo i resti della chiesa intitolata alla Madonna del Carmine, che è la protettrice di Campomaggiore, di cui custodiamo la statua originale nella chiesa attuale, che era quella che era qui venerata all'epoca di questo borgo. Qui c'è un gioco di luce. Eh sì, qui poi sono fa parte sempre di questo percorso. C'è da dire che di notte comunque ha un fascino tutto particolare, sì. Molto bello, sì. Anche con la luce delle stelle, i profili, si intravedono delle montagne in lontananza appena appena. Sì. È bello, sì. Poi naturalmente nel corso di questi anni, degli anni addietro, è stato inglobato da piante di fico, di ailanto, e quindi la natura pian piano si è impossessata, insomma, di quello che era, ha ripreso il suo corso. All'inizio quindi noi facciamo vedere quel che rimane, le vestigia appunto di queste strutture che sono rimaste. Le casettine erano tutte di 25 metri quadri ciascuna, 20 palmi, sì, corrispondono a circa 25 metri quadri ad ognuno. Lei sindaco, prima che sindaco, che professione svolgeva? Ma è la libera professione di quello che posso fare pure mo, di avvocato, sì. Ah beh, quindi lo fa ancora? Sì, lo faccio, sì. È un po' più sacrificato, un po' più... Beh, certo, quindi però... ha studiato legge comunque. Sì, lei ha studiato a Napoli. a Napoli. Città partenopea, che sono molto affezionato alla città napoletana. Beh, Giovanni è di Napoli. No, beh, scusami, è di Caserta. Sono di Caserta, però vivo a Napoli da 7 anni. Benissimo, un bella Napoli. Napoli, una volta che la conosci, comunque ti entra e fa parte di te per tante tradizioni, costumi, cultura. E lei, una volta che si è laureato, poi ha deciso di tornare direttamente al paese? Eh sì, perché purtroppo noi siamo presi da questa voglia di ritorno. Poi nel corso degli anni ognuno fa le sue riflessioni, ha fatto bene, ha fatto male, però come dicevo prima, una volta che hai intrapreso una strada, su quella strada bisogna lavorare senza, diciamo, piangersi addosso, senza perdere tempo. Ci può essere sempre un'altra possibilità, però a via di pensare a un'altra possibilità forse perdiamo quel tempo necessario che ci richiede oggi lo sforzo, e noi dobbiamo concentrarci sullo sforzo di ieri. Quindi ho cercato per la mia parte di fare il massimo in quel momento, senza pensare che poteva essere, mi sarebbe piaciuto pure, che ne so, rimanere a Napoli, coltivare il foro napoletano, che avremmo avuto forse un'altra formazione. Però, come si dice, scelto una via, impegnarsi su quella strada, e il passato purtroppo, quello che non è stato, non può essere. Eh sì, è un luogo che non si può cambiare per definizione, il passato. Sì. Questa è la nostra Madonna del Carmelo. Questi sono i resti della chiesa. Questi sono i resti della chiesa, e qui ci troviamo al cospetto della Vergine del Carmelo. Questo è il fondo. Eccolo qua. Gioacchino Pietro. Comune campeggia. Campo Maggiore. Un'immagine del conte. Del conte, il suo impegno. Profilo aristocratico ottocentesco. E qui poi abbiamo Laura Antonacci, figlia del senatore e vedova del marchese Gioacchino Cutinelli, sempre quello che abbiamo visto in comune, che era fu una grande benefattrice del paese. Aiutava bambini e poi per la ricostruzione ha anche dato dei contributi economici. E ci sono delle lettere a testimonianza, appunto, che della sua, dei suoi riscontri, situazioni, bisogno anche di famiglie che avevano, diciamo, erano anche nobili, però poi avevano avuto, a seguito della frana, delle difficoltà economiche. Questi sono i luoghi dell'autorità, come vi dicevo prima, la contessa Marianna Proto, che insieme al cognato l'abate Don Ferdinando Rendina sottoscrissero l'atto di fondazione per la concessione delle terre e delle condizioni per la nascita del borgo. E lì poi c'è il conte Teodoro, come vi dicevo prima. Salto nel tempo, vecchio mio. Ed eccoci qua che, sbucando fuori dal borgo della città dell'utopia, siamo arrivati nuovamente alla clessidra da cui siamo partiti, che porta scritto l'anno 1741, anno in cui il borgo, a causa della frana, è stato abbandonato e poi la comunità di Campomaggiore si è trasferita dove tutt'oggi sorge la città. Ringraziamo il sindaco sì. Nicola Blasi, se non sbaglio, sì, il cognome, sì. Oh, per il primo cognome che azzecco da quando abbiamo iniziato il festival. Ormai che ci diventato lucano. Ormai fatto. Pensavo fosse il mio marchio di fabbrica sbagliare tutti i cognomi, invece no. E ringraziamo il sindaco Nicola Blasi che ci ha accompagnato in questo tour privilegiatissimo, perché notturno, della città dell'utopia. Grazie mille. Salutiamo tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Live. Questo era Antipodi. Arrivederci. Alla prossima puntata.